Sì, tutto a posto. E tu perché stavi fischiando? Avevi due apparecchi accesi da fianco all'altro. C'avevo la apparecchio acceso. Te ti vuoi sentire una cosa? Me l'ha mandato Stefano ieri a me. Me l'ha mandato su WhatsApp. Mandato Zirane. Me l'ha mandato su WhatsApp, vabbè, ce l'avevo io nel computer. Poi mia nipote aveva cancellato tutto. Adesso non mi ricordo più qual era il sito, vabbè. Uno di questi giorni già me lo faccio dire a Stefano, me lo faccio rimettere, però prima mi sistemo bene il coso. Il computer, perché devo aggiornarlo, capito? Una volta che mi aggiorno il computer, allora mi metto quello che mi manca. Riscarico un po' di roba, riscarico per... Vabbè, intanto i cosi già li vendono, ho visto adesso. Il PMR li stanno vendendo, 50-70 euro uno. Cioè, uno, 5 sono, mi sembra. A Sassari. Capo. E poi bisogna programmarlo e via, se sono quelli senza coso. No, no, sono già programmati, insomma. C'è una ditta che le sta vendendo, ho visto ieri. 50 euro 5 ce ne sono. Adesso mi sembra c'è un'altra ditta 70 euro, cioè 70 euro, te lo dà direttamente con microfono te l'ha. Per parlare, hai capito, li ho visti ieri. Ciao. Era un pazzo, era, però, oh, quanto ne è. Io quando ero più ragazzino, non so se te lo ricordi, mi facevo chiamare, perché siccome non mi doveva far scoprire, perché prendevo il baracchino a cua di babbo, mi chiamavo Giovanni Fabricamuro. E do ciao, Giovanni Fabricamuro. Fammi la calza, sento che sei giovane, io vai, brutto broccia, si incazzava. Io già me lo ricordo, già, per carità, la sei giornata che ci ha fatto passare quello. Cioè, mi dici se non vedi cose, nel suo sito, sono roba di... Ora ti posso dire, 50 file ci sono, tutti sui, di registrazione, una registrazione di un anno come minimo. Dio mio, ma quanto si incazzava questo cristiano? No, cioè non capisco, mamma mia, oh Iulia. Questo c'ha da 75 anni come minimo. Penso, 70 anni e qualche cosa già ce li ha. E l'avevo già da prima. Io penso di sì. Non imbianchine già più il muro, no? Beh, quello sì. Se la pare che non lo vedo, se la vedo ma lo riconosco, mi gira, gira. C'aveva i capelli bianchi, senz'altro, sarà magari o dimagrito, ingrassato, quello che è. Era lì che è scomparso, cazzo. Il giorno che si ripete baracchino, guai. Sì, sarà torna come te prima, ma dice che non vogliono manco l'odore, dice che vogliono che li metta del baracchino. Non è più come abitava l'anno. Vabbè, prima o poi andrai in patria verso ambi. Non è che la sola se la possa tenere tutta la vita, no? Già era insopportabile da prima, arrivando a 70 anni, 80 anni se l'ha messo male, quindi penso ce lo metteranno in qualche RSA, sta tranquillo. Sì, sicuramente, magari è bravo adesso, ma non rompe più. Non so perché facevo queste cose, non riesco proprio a capire che... Sì, vabbè, gli si era cercato lui, la verità, perché lui gli aveva pigliato al gusto, cazzo. Tutto lo facevano schiattare. Ti faccio schiattare. Allora, ti faccio uscire, uccide fuori, ti faccio uscire, hai capito? Vabbè. Ehi, Mattia. una zia che prendeva le bombole a noi l'ho conosciuta, eh. Ah, beh. Lui abitava prima, guarda, c'era... Vabbè, abitava l'appartamento della, della madre, che poi abitava attaccato alla... come si chiama? Dove lavorava il padre, quindi facevi 4-5 metri che è già arrivato a cancello e dove lavorava, adesso non so se sia ancora aperta con la, la Marmarmi di Francesco Micolis, ci dovrebbe essere il figlio, penso che sia chiusa, non lo so. Dicevano che le facciamo mangiare il brodino di marmo, te lo ricordi? Ehi, i brodini di mammo. Quanto si incazzava, porca miseria, quel uomo lì. Una volta acceso e ho sentito brutto figlio di coglione, col cazzo non ne apriva più, ma Bucci un forsennato, e già me lo ricordo, tutti i tuoi compagni me lo ricordo. Io non li ho conosciuta la zia, diceva mamma mia, ma lo facevano incavolare, si incavolava come una bestia. Cioè, dice che c'è di tutto di più, cioè, la sorella non aveva più, cioè, non riusciva più a tenerlo. Io la mangiai a sosso, meno male, grazie a Dio. Ma dicono così, qualcuno dice di no, qualcuno dice così. No, so che a sosso, poi qualche volta se la porta via il fratè, il coso, quello che c'è in via Mendola. Ciao. Non mi ricordo se c'era la sorella o un fratello, la verità. È sopra la pizzeria che c'è lì in via Mendola. Ho capito. Ma Edu, vabbè, no. Penso che... Dice che assolutamente non vogliono far toccare manco l'odore del baracchino, li vogliono far sentire. Perché ne ha passato tante. Sì, e se non beveva mica, cazzo. La birra. Non gli facevo nulla, era birra del vino, nulla, non lo beccavi per niente. Era massiccio, capito? Addirittura. Ti sto dicendo che una volta veniva con me in pizzeria, cioè, mi invitava la pizza, a me mi dava 50.000 lire, e gli ritrovavo 10 euro il resto, tu figurati tu, che aveva un anno di bottiglie di birra, 1, 2, 3, 4, 5. Un cazzo lo ubriacavi, te lo sto dicendo, magari ne uscivi ubriaco tu, ma lui proprio, il cazzo se te ne va bene. Ah, vero? Vabbè, ma se si incazzava qualcosa ci aveva nel cervello, scusa, ma prendeva pastiglie questo cristiano? Non lo so, la verità non te lo so dire se prendeva pastiglie. Sono già detto, in realtà mi sembra che no, comunque pastiglia non le prendevano, ti preoccupare, per quanto mi ricordo io. Poi, e come si incazzava anche alle 3, 4 del mattino, lui, lui mi sembra faceva fino alle 5 del mattino, poi alle 8 e mezza della notte però già sveglio. E quante volte accendevo il baracchino verso le 3, 4 del mattino, ancora lo trovavi lì parlando. Sì, ma alla fine, ma ha fatto un discorso serio questo qua. Ti mi giuro di che è stato a baracchino, se lo fai già era una persona tranquilla, no? Nessuno mi rompeva le balle, parlava tranquillo, ma non riveniva questi giochi alla calzetta, eccetera, eccetera, capito? Quindi no, non lo so, era una persona tranquilla. Poi dopo 6-7 anni si è cambiato totalmente di carattere, boh, era per i fatti suoi. Boh, andiamo bene. E molto di gioco della calzetta questo cristiano, non ha mai parlato tranquillo, normale. I primi anni che è entrato sì che parlava normale, poi è andato per i fatti suoi. Ho capito adesso. Boh. Oh, iaia. quanto si incazzava però. C'è un po' di coda voglia. Ho mandato il telefono ieri, ci potevo ammazzare, di invadi, ho scritto, non sapevo cosa mandarmi, come audio. E chi se già non c'è lo sa, già, ma razzucci. Lui ce l'ha tutte le registrazioni, ce l'ha nel computer, capito? Ho fatto cadere solo la lì dal computer e mandatela direttamente su WhatsApp, capito? Molto bene. Guarda che lo faceva incazzare a Piero Drago, faceva incazzare Tonino. Lo va a dire a pezzi. Poi che c'era? C'era anche qualcun altro che lo faceva incazzare. Sono capitale, guarda. E poi giù, poi via brutta bestia. Piero lo faceva incazzare davvero. Esatto, cazzo. Ma zia pezzo, ma sono Torino, cazzo. Sei zitto, vai via da questo canale. Anche tu lo sciopero faceva a pezzi. Già me lo ricordo già. Poi prima questa pezza. Qual è macone di Piero Drago, diceva. E allora. Ma di la verità, già ti manca adesso. Se fosse diventata Baracchina adesso, sai come sarebbe stato più di canali? Sarebbe stato un mente in prima, sarebbe stato. Già lo so, già. E chi è che non manca? Sarebbe passata la voce. Mica in ve. La gigante avrebbe attaccato pure. Vabbè. Dove? Alfredo, cazzo, va bene, quando comincia a scalare i punti rivi comincia a fare freddo l'alimentatore, non so male, me lo prendo e così glielo cambio da 25 ampere. Non ho capito come cazzo abbia fatto a saltare, cazzo, blu. Non ne ho di lineare roba del genere da poterlo pilotare così tanto. Vabbè, questo alimentatore c'ha, e della Falettoni, che ho costruito, c'era 30 anni quasi. Antone, perché c'era già la sua età, ciammi, quasi qualcosa in perdita, sai. Ma secondo me ce lo metti a posto, funziona bene, non ha problemi. Alla fine, grazie a Dio, non sono mai bruciati, sempre i ponti di riodi, oppure i condensatori. Ma ho avuto sempre problemi, adesso bisogna che me lo restauro uno di questi giorni. Lo porto all'amico mio, gli faccio fare tutte le cose di nuovo, gli faccio fare. Faccio mettere i ponti di riodi, a posto di essere all'interno, cazzo, con questi cavetti qui, mi maratoglio non viene, perché i cavi sono rigidi, sono grossi quasi mezzo centimetro, e viene male, cazzo, ogni volta. Gli faccio cambiare i condensatori, gli faccio mettere quelli più piccoli, gli faccio mettere un bel po' in parallelo, almeno resiste, cazzo. E questi qui sono modello vecchi, sono più grossi. Sono una meraviglia e funzionano bene. Io sono contentissimo, la verità ti dico. Ma no, ce l'ho anch'io l'alimentatore, ce l'ho attaccato a cosa? Allo IAS. L'altro l'avevo venduto perché mi ha telefonato e mi ha detto, dice, dammi, non te mi serve da 50 ampere. E tu vabbè, prendilo e cosa ti dico io? Adesso me lo devo riprendere, lo devo ricomprare perché mi serve per forza. Si è imballato il, come si chiama, la falettonica, quindi devo pilotare il 39, l'87 e il coso. Allora, il 39 è diventato il suo, c'era, perché c'era il coso di legno, l'ho recuperato da uno stereo, l'impianto stereo che c'era agganciato. Ho trovato la mondezza e funziona bene, perfetto. Lo sto usando adesso, non dà nessun problema, questo è diventato di qua, è quasi 3 ampere. poi mi sarei beccato per la 83 a 20 watt e succhia di più, poi devo pilotarmi il tornado e l'ho rubato che c'ho. Poi nell'altro alimentatore, quello lo switching, ci devo mettere quello VU da macchina, devo agganciarli in modo che quando lo voglio li accendo e non faccio altro cambiare antenna da una parte all'altra. Scappa. Comunque, io sono soddisfattissimo, sono me, lo sto usando adesso, lo sto usando con questo apparecchio perché l'ho attaccato solo qua. Quando porto l'amplificatore me lo tira tutto bene, ma tu l'hai messo a 13,8 o l'hai lasciato così? No, 13,8 Ma io qua dice 12, però l'ho lasciato sempre così io. No, 13,8 quasi, vabbè, 13,2, 13,4, vabbè, lo stesso. Mi nota benissimo. K, ti stavo dicendo, però, questo alimentatore che io ho comprato dai cinesi lo dichiarano per 12, mi hanno detto che c'è un trimmerino da girare per mettere a 13,8. Sì, c'è un trimmer, rimane a fianco alla... dove sono le... dove i cavetti, c'è un trimmer lì, quello lì vigilerà per appena. Quello che c'è i cavetti della 12 volte, se hai capito. All'inizio, no? dove c'è sono i cavetti, l'aggancio per i cavetti da 20, lì non c'è niente, da un'altra parte c'è il trimmerino, giri quello, bianco, piccolino, verde, quello di colore, lo giri appena con il voltmetro, se lo regoli a 13 si è a posto. Cappa, però io il mio tessere non funziona bene, allora l'ho lasciato così, capito? Devo prendere un test buono e metterlo a quel voltaggio lì. Un test digitale che prendi, quelli che vendono i cinesi, costa 12 euro costa. Ti segna il voltaggio almeno, vai in corrente continua, lo metti, il tester. E così ti regoli il voltaggio, sei tranquillo, non sbagli. Ma fai quello che io, ma è una cagata, eh. Sì, vabbè, lo so. Io da un caricabatterie, cioè caricabatterie di quelli, ti dico di quelli che vendevano una volta ai cinesi, che adesso non li vendono più. C'è la batteria dentro da 12 volts, da 7 ampere, in pratica ti potevi mettere in moto la macchina. Io ho tirato la batteria, gli ho fatto la purifica, gli ho lasciato il voltmetro e l'ho modificata a carica batteria, l'ho modificata, è perfetto. L'ho regalato a cosa? L'ho regalato. Al Nico ho regalato quello lì. Ho messo un trasformatore dentro con un ponte di diodi da 7-8 ampere, carica la batteria, era una bellezza, la batteria era proprio caricata in 3 ore e mezzo nemmeno. Ho preso e ho acceso la foto con la mia sorella, l'ho messa in moto, perfetta era. Mi prendo un coso buono, come cavolo si chiama? Un tester, come si deve, perché io mi serviva a me la gente di coglione, non riuscivo a misurare niente. Un tester buono e lo faccio. Ci sono i tester, te lo prendi, costano 15 euro, anche da Bricome, lì, vabbè, adesso siamo in cosa oggi, penso che siano chiusi i negozi di cinesi, ma domani apro, ti avvicini lì, quando fai le consegne, tanto è pieno di negozi di cinesi, c'è anche in via Napoli, ti lì in via Napoli 2 secondi, dici dammi, mi serve un tester digitale piccolino, e ti prendi il tester. Non capisco perché si è tutto scippizzato, strano. Dopo ho provato a togliere la batteria e rimettergliela. Vabbè se riparte. Che voglio che riparte? scendetela, su, scendetela. Ti ho detto giù. Se mi riempie tutto di peli, cazzo, questo peliccia che c'hai, cazzo di visone. Cappa. E chi è quel cagnaccio monello, E allora, quel cagnaccio monello si è attaccato a me, quello mio, E i bambini ci ritesta questo. Diventa matto, diventa per cosa? I bambini piccoli. Quindi cosa non posso portare gli altri cani quando vi vede, mamma mia cazzo, ogni volta che lo portavo al bar cazzo passava qualche cane cazzo, mi toccava cazzo tenerlo cazzo a freno e poi si metteva sempre a abbaiare, a ringhiare. Morello! È tutta roba sua qui vicino, capito, tutto il territorio suo secondo la testa sua. Ho conosciuto cani bravi, cazzo, che non abbaiano, non ringhiano, anche se vedo altri cani, ma questo cazzo è una cosa allucinante. Peggio di Yoku Shire. Ma so che musicheggia pure, mi hai detto, no? Noi tanto già si gira, già, ma non è sempre. Secondo quanto è evoluto ogni tanto. È pazzo quel cagnetto. Mi era mai vecchietto, c'hai i baffetti bianchi, c'ha... C'ha più di 20 anni, c'è vero. Ma sei vecchio rincoglionito, sei... Vero. Ma è soltanto un problema. Pure ma già quando vuole lui, cazzo. Ho messo di 20 anni esaurito, gli piace la carne del cavallo, gli piace, capito? I cioccolati, caramelle, quello che vuole lui. Esiliato ero, cucciuccetto. Era esiliato proprio. Monellino, piccolino lui. Voi la compagnia, tutta volta è a destra, a sinistra, a destra, questa. Tutta volta che alzavo le coperte, chiedevo la coperta, alzavo le coperte che si infilava dentro. Stava un'ora, un mezzo, due ore, si lamentava, poi pigliava di nuovo e partiva fuori. Una scena, ragazzi. O sale sopra le coperte, venta dentro, sale sopra, venta dentro. Quando c'è un bel di callo, prende e va fuori. Piccolino. Un po' di anni fa ho avuto il gattino, cioè qualche anno fa, dai, ho avuto i gattini, erano graziosi, erano bravi, erano. Ma i gattini, capito, sporcano in terra, il discorso è quello. Il gatto è come avere l'ammoniaca dentro a casa, è uguale. Sono belli perché sono belli, anzi sono meglio dei cani. Però se li fidi qualche rivale te lo buca, No, vabbè, se devi sterilizzi no, non sono così. Non sono così cattivi, capito? L'importante è che... Già lo so, già. Cappa. Sai che devo solo. No, già. Un pochino di stracco, dopo. Mi poco fa abbiamo mangiato, abbiamo. E adesso ci siamo cuccati, ci siamo. E via. Un po' ci dormiamo. Che giornata strana, però. E freddo, acqua e basta, cioè non c'è altro. Quindi, io sono a dolori, a linguine. Ogni volta che prendo freddo esco per dire a fare la, come si chiama, a fare la spesa, eccetera, eccetera, mi prendo freddo, mi viene quel dolore, cazzo, non c'è altro. Cappa. Lo so, c'è un po' di freddo, io sono un po' più qua perché... Freddo, c'è qua prima strada, va bene, se sei sotto il tetto per forza il freddo lo prendi. Una questione, vabbè, il scaldamento ce l'ho, però non lo uso perché c'è la caldaia che mi sta male, quindi non la uso nemmeno, ho preso, ho chiuso tutto. E... così almeno sono più tranquillo, l'uomo sono di tranquillo, non sa che se fate il gas, non sai, mi avvo con la caldaia, sono cazzo, so. Adesso la rielimino del tutto, faccio venire qualcuno che si deve vestire, la faccio staccare e mi metto lo scaldabagno a gas, mi metto fuori. Faccio un muretto con caspetto, c'è un filo dentro lo scaldabagno, intanto non ha bisogno del coso, si scade in automatico da solo, con gas. Come cosa revisionare? È spenta, gli ho staccato anche il gas addirittura, è chiuso. Capito? Devo farlo staccare del tutto, da quella caldaia la elimino e ci metto, tanto non la uso. Mi serve solo uno scaldabagno per potermi farmi la doccia come si deve, perché con 30 litri d'acqua no, la doccia te la fa, devi stare veloce te la devi fare, capito? Non è che puoi stare lento come la vasca da bagno, no? La caldaia non ti conviene di più a gas, scusa, infatti la metto a gas, caldaia a gas prendo, c'è acceso da bricco, ma devo farmi staccare la caldaia a gas, fammi staccare la caldaia e ci metto la scaldabagno, che mi conviene, la caldaia a gas consuma il doppio, capito? Adesso sto consumando 20 euro di gas al mese, quanto la bombola, figurati tu. E se usi la caldaia al minimo 50, 100, allora ce la faccio, non esiste, no? Gappa, già lo so già. E valutare tu quello che va meglio. E metto la caldaia a gas e basta, ma accendo nel momento opportuno che mi serve l'acqua calda e prendo la specchio. Sai che mi serve solamente per fare i piatti, la caldaia e per farmi la doccia. Non mi serve per altro. Gappa, dai. Ale, ci posso sentire più tardi? Che io mi faccio una pennichella. Ci sentiamo più tardi, ok? Quando arrivo con 4 watt? Sempre 9.20. Ehi, a 9.20 sei infatti qua. E vabbè, ci sentiamo più tardi. Fate una bella pennichella. Poi dopo ci sentiamo. Qual è il problema per quello? Comunque sei 9.20, radio 5 qua, perfetto. Sto usando il Connex 4000. Ok. 4 watt dell'apparecchio. Ok, dai, ci sentiamo. Quando c'hai antenna e tutto. Ok. Ciao, ciao, ci sentiamo lì. E a dopo, ciao. Buona pericchera. E allora, chi c'è su questo canale? Radio, venite fuori. Non mi dite che siete tutti quanti in giro perché sta piovendo. Dunque, non è vero. Aiù, giovani di Bella Speranza, ci siete? E allora, aiù, ci svegliamo, sì o no? Canta Sassari, aiù, aiù, Sassari progresso. Anzi no, Sassari in regresso, non in progresso, in regresso. Avanti il fruscio. Ok, ciao Giuseppe. Ciao Roberto, stavo chiamando da un paio di minuti, ma nessuno rispondeva. Ed eccomi qua, sono appena salito da 5 minuti fa, nemmeno 5 minuti. No, stavo andando qualche pezzo di partita, ogni giorno ci ha pigliato l'Ugaglia, hai visto? C'è l'Ugaglia, è quello che ha preso, il coso, come si chiama? Quello con l'Inter, con l'Ottone, cos'è? Vabbè, dai, che con l'Ottone, si è a due, Oh, stava vincendomi, poi è riuscito, ha fatto 1-1, poi è riuscito ad andare 2-1, due pari l'Inter, e poi di lì, sono scomparso. Solo la Giuseppe ha pigliato il Sassuolo, 5-1 col coso, con l'Atalanta. Anche quello, hai visto il Sassuolo che sembrava una squadra decentissima all'inizio del campionato, anche nelle primissime posizioni è stata, adesso si farà dal boom Brueda. Già lo so, anche la Lazio ho già pareggiato col coso, col Genoa, anche quello è un bel risultato per il Genoa, col Ballardini intanto Marco è rientrato e ha fatto un bel risultato, la Fiorentina ha pareggiato dopo che ha vinto con la Juventus, e poi il Torino, sono contento per il Torino, mi dispiaceva perché meritava la posizione, ha vinto oggi 1-0 con Garera, col Parma mi pare. Sì, infatti. E vabbè, il Cagliari, il Baccarità, è mica una vergogna questa squadra. È una vergogna. Io vorrei sapere per quale motivo ha mandato via Azenga, quel deficiente del presidente, e quei pochi mesi che ha fatto Azenga. Era sicuramente meglio di Francesco. Ma cosa credevano? Che Di Francesco potesse fare dei miracoli col Cagliari? Ma ha capito che la squadra è la squadra di Murti. Io penso che quest'anno lotta per non retrocedere, perché già nei bassi fondi della classifica, se la guardiamo bene, consideriamo i punti, è già lì per lì per lottare per non retrocedere. Io lo so, purtroppo ci sono squadre troppo competitive che hanno troppi sud. Ma adesso io pensavo che Nangolan oggi giocasse, non ho capito come mai non ha giocato. Ma evidentemente ancora non è pronto. Nangolan praticamente era fermo. Non è che con l'Inter stava giocando, no, assolutamente. Era in disparte, perché quell'animale di Conte l'ha messo in disparte, che poi non capisco tutta la sua capacità e la sua di tecnico che ha questo Conte a scattare un giocatore come Nainggolan. Ce ne vuole del bel coraggio, ce ne vuole veramente. È solo Marco e Bu, adesso anche quello Achimio, come si chiama, anche quello non lo vuole più. È un dittatore, vuole comandare da solo questa squadra. Guarda, io racconto, pagando il bus video, gli ho detto prenditi una squadra tipo Crotone, quelle squadre che devono lottare per non retrocedere, e mi fai vedere quello che vale, e poi ti prende, è inutile che gli dai una corazzata, che lì è una corazzata, sono quegli allenatori presuntuosi che trovano sempre scuse quando perdono, eccetera eccetera. Io guarda, per tutto quanto un robusto video gli auguro di andare ad allenare in squadre di bassa classifica, così si vede il corso, la bravura dell'allenatore, che cacchio se l'hanno bombato a Ghic, Baria, quello che ha inventato il calcio, è uno spaccone, proprio antipatico, non sa perdere, è una persona viscida. Vabbè, c'è un bel argomento, parliamo della... No, stavo guardando, leggendo, di quei cacchio di circuiti vecchi che tu dici che hai fatto, quelli con reazione, radio reazione, ma tu hai fatto la reazione normale o quelli a super reazione? A reazione, sì, un po' di abbassamento di voce oggi, sì, a reazione normale. E sono delle radio che oltre a ricevere nel contempo mandano spurie, distruggono qualsiasi ricevitore che c'è in zona, proprio vicino, a partire da radio e altre apparecchiature eccetera eccetera. Sono tremendi, guarda. Sì, no, già lo so, ma tu poi lo provavi con l'antenna esterna, quindi. Sì, poi, beh certo, poi l'attaccavo ad un'antenna ed ecco che quella sparava in tutte le direzioni, certo, perché se no è chiaro che non è che può mandare molto, può dare fastidio se ce l'hai, che so io, da una stanza all'altra, nello stesso ambiente, o che so io, anche dall'appartamento adiacente che ti separa solamente da un tramezzo, eccetera. Però per poter dare fastidio ci vuole un minimo di antenna, no? E infatti quello lì stavo pensando ieri, ho detto, ma se non ha l'antenna esterna collegata, tra chi disturba, dentro l'appartamento suo forse può disturbare, se no per dare fastidio agli altri deve mettere un'antenna esterna. Certo, se poi vuoi usufruire dell'antenna centralizzata, cioè di una presa di antenna centralizzata che hai a casa, va ugualmente bene, anzi tanto meglio, allora è micidiale proprio. Tu dalla presa tua TV, per dire, che hai a casa, se l'attacchi lì, poi hai fatto non 13, 14 come oggi il Totocalcio. Già lo so, i fili di lì cacchio e disintegreggi tutti quanti le prese, c'è un condominio, distrugge a tutti. Appunto, te lo sto dicendo, certamente, sì, ma è così. Sì, avevano sempre l'idea che ero io che avevo, senza nemmeno ancora finire di installazione, già loro stavano protestando, perché dice che non vedevano più, se non ci avevo tenuto ancora, cosa stai dicendo? E poi tra l'altro io ce l'avevo sul mio stesso palo, no? Perché avendo un'antenna centralizzata che era scadentissima, di conseguenza è un padrone di casa che allora io abitavo in affitto, quadrato era, non quadrato come te, come il tuo numerativo, quadrato di gabbo veramente, che vedeva solo le cose a modo suo, non ti permetteva nemmeno di salire sul tetto per mettere a posto l'antenna TV. E allora io avevo deciso, allora mi piace l'antenna io, mia personale, indipendente da tutto il resto del palazzo. Mi ho messo questa antenna e in punta ci avevo messo l'antenna del trasmettitore, no? E dunque ero tranquillo, andava benissimo. Però gli altri si lamentavano, per forza si lamentavano, se l'antenna che c'era della centralizzata no, era tutta brasica, è chiaro. Tanto è vero, poi dopo vari tentativi e aggiustamenti che hanno chiamato, che io ho partecipato anche alle spese per mettere a posto, eccetera, mi sono rotto le scatole e l'ho fatta io direttamente, l'ho fatta che tra l'altro era l'ingresso di una botola dell'appartamento a fianco, no? Allora sono salito e l'ho fatto io, pensa, di notte, quando sono rientrato dal lavoro a buio, siccome c'era il sottotetto in questa palazzina, e ho fatto tutto l'impianto, ho messo l'amplificatore nuovo, ho messo a posto tutto quello che ci voleva, cavi eccetera eccetera, e nel frattempo avevo detto attacca, metti un pezzo di latta isolante e attacca il microfono e via, vediamo un po' cosa succede. Quando ho finito ho chiamato tutti, una certa Maria, una certa Marilena, e una certa signora Tatti o come si chiamasse, ha detto come va la televisione? Sì, si vede benissimo, ma adesso bisogna vedere quando accende, ma guarda che è già acceso, non da adesso, ma da quando sono salito, da un'ora e mezzo fa, due ore fa, sono salito su ed era già acceso, continuamente, capito? Ma davvero, davvero, sì, davvero. Beh, da quel giorno non hanno detto mai più niente, perché? Perché avevo messo la posta l'antenna io. Adesso purtroppo l'ignoranza della gente è così. No, io l'ho visto, sono arrivato invece al mare, adesso non si usa più perché i ragazzini hanno tutti il cellulare e portano questo cacchio di cellulare, questi altoparlantini piccolini, si mettono appresso, eccetera, queste piccole casse. Ma prima si andava tutti al mare con radione, ragazzi, a manetta, eccetera, eccetera, attaccavano la radio, e c'era un distributore di frequenza. Faceva l'88 a 108, su tutta la banda faceva disturbo, e ti dava un fruscio, un fischio, una cosa del genere, e tu magari lo mettevi in spiaggia, c'era nel raggio di 30 metri, 40 metri, questa annientava tutte le stazioni radio vicine, cioè c'era uno con radione, stava ascoltando 88, tu accendevi questo, la batteria funzionava a 9 volt, e ti dava mezzo watt, non so che potenza era, 200 milliwatt, una cosa ridicola, e ti mandava questo fischio e disturbava tutta la banda, 88 a 108, alla fine quelli che sentivano questo fischio spegnevano. Sì, perché anche quello era un tipo di apparecchio a reazione, che erano più, succede così, nel frattempo che trasmette, cioè che riceve, trasmette anche, ed ecco che influenza tutte le altre fonti di ricezione, ecco come la sua. E vabbè, ma tante cose che c'è da lui, ma non è solo quelle, le modifiche che ho fatto, ne ho fatto tantissime. Io, ad esempio, se volevo, in qualsiasi momento ascoltavo i dialoghi che facevano nella casa di pena lì, a Rasinara, tranquillamente, perché con una radio taratta o staratta, come la vuoi chiamare tu, ero riuscito a trovare la sintonia della frequenza che trasmettevano loro. Questa è una semplice radio, mi con una semplice radio a valvole di allora. Tante cose si facevano, tantissime prove, ma ormai era nebbia di più. Ormai sono passati tanti anni, no. A parte il fatto che non ho più voglia di fare certe cose, ci mancherebbe altro. Ma prima ero un ragazzo, la passione era tanta, anche se mi è rimasta, però non ai livelli di mettermi adesso lì a scacciavitare o a saldare eccetera eccetera, no, assolutamente no. No, io invece ciò me l'ha regalato il fratello di mio zio, buonanima, questo signor Franco, mi ha regalato tutto il coso di scuola radio lettera, tutti i fascicoli, però ho dati lo scritti a macchina, perché prima gli davano scritti proprio in originale a macchina, non come adesso per fotocopiatrice e cose, gli davano proprio, cioè non sono fotocopie, sono in originale, non saranno 200-300 fulli, forse anche di più. E più mi ha regalato una radio a galena da costruire e poi il kit già costruito e poi il kit da costruire con il coso, i sali di galena, quello dentro un coso, un'ampolla eccetera, bellino. E poi mi ha fatto il coso per fare le sfide, te l'attaccavi per dire, a seconda della frequenza che volevi fare ti facevi un certo numero di sfide e tagliavi su quella lunghezza d'onda. Ecco le cuffie, pure la cuffia mi ha dato, monocuffia, dai, proprio per ascoltare, ma a livello elementare, ed è la prima radio senza alimentazione né niente. L'ho fatta io quando avevo 14 anni addirittura, guarda che ce l'avevo anche sino l'altro giorno, l'ho smontata, però mi è rimasto ancora il condensatore variabile di quelli a lamelle di una volta, anzi ne ho più di uno di quelli anche, forse anche la bobina, sì, insomma qualcosa del genere, ma ormai non servono più perché erano radio a modulazione di ampiezza, cioè onde medie, per cui le onde medie ormai sono chiuse, è difficilissimo riuscire a trovare una stazione. Io l'avevo costruita da tantissimi anni e sì, da pochi giorni fa ce l'avevo, guarda. Stavo guardando dentro delle scatole e ho preso e non l'ho smontata proprio. Ho detto, ma a costruirla ci vogliono 5 minuti, e se sapessi tu quanti, tu forse non l'hai conosciuto, ad esempio un certo Angelo Mello, ex poliziotto della polizia che era ad Alessandria tanti anni fa, ed è morto 2 anni fa, giovane, 55 anni avrà avuto, non lo so di preciso, 55-57, ed era vice commissario della polizia di Alessandria. Purtroppo si è ammalato ed è morto, ed era un ex CB. È un ex CB che praticamente io avevo conosciuto il baracchino, perché ce l'avevo questo ragazzino, che allora lui era ragazzo, andava in giro con un pony da stazione base e con una specie di sacca fatta apposta per lui, se la portava in giro a tracolla e veniva sempre da me in falegnameria. E te cos'è questa cosa? Allora, lui c'è tramitito, fammelo vedere. E l'avevo visto dalla volta, no? Beh, allora io per fargli vedere un'altra cosa che lui non conosceva, avevo già la radio a galena, che gli ho fatto in bottega, proprio in bottega, ho preso un pezzo di compensato, avevo i componenti che mi ero preparato dal giorno prima a casa, e gliel'ho fatto davanti, gliel'ho fatto, te vai in giro e fai ascoltare questa radio, questa qui è una radio, prendeva 3 stazioni, prendeva. Dunque, allora sì, andava bene, ma oggi non è più possibile perché onde media non ci sono più, per cui non puoi sentire niente. Sì, potrebbe capitare magari durante la notte o la mattina molto presto, alle 3-4 del mattino, altre stazioni che ancora trasmettono onde medie, potreste riuscire ad intercettarle, ma non è semplice. Chi è che si mette a quell'ora a andare a girare il VFO, cioè il commutatore, per trovare stazioni? Ci vogliono 10 minuti per fare una cosa del genere, non so se tu l'hai mai fatto, ma io l'ho fatta a voglia, se l'ho fatta, basta un diodo radioattore e si è a posto, non è un problema, anche senza il commutatore, cioè senza il coso, come si dice, il condensatore variabile, si può fare. Sì, con gli anelli che stai dicendo tu sulla bobina, no? Ogni, per dire, non so, incominci la bobina e fai, che so io, una decina di sfide, no? poi allunga e fai un occhiello, questo occhiello, dopo l'occhiello fai, continui con le spine e le fai un altro po' e così via, ogni tanto ti fermi e fai un occhiello, a ogni occhiello può essere una frequenza, capito, se faceva così, ma si può fare anche tutta la diretta senza bisogno di fare occhielli, raschiando magari il filo ad una certa distanza di giri, cioè di avvolgimento, trovi lo stesso la frequenza, non è un problema quello. Sì, sì, infatti quello lo facevano durante la guerra, per ascoltare i bollettini di guerra, le prime radio sperimentali, anche nei campi di concentramento le hanno fatte di nascosto, c'era un film, avevo visto, poi li avevano tutti ammazzati quelli che avevano fatto con la radio. Per cercare di sentire queste cose. No, io quello che c'ho, io ho un variabile lamelle e le bobine. Mi ha dato lui il coso, una specie di arganetto, chiamiamolo arganetto volgarmente detto, per avvolgere le spine, te le calcolavo in base alla lunghezza d'onda, perché potevi farla anche fissa, per dire 160 metri, prendevi e ti facevi, e le avvolgevi dentro questo cilindretto. Mi ha dato anche queste specie di parallelepipedi per avvolgere le spine in cartone, eccetera. Un po' di roba mi ha dato, dai. Sacco di variabili mi ha dato, quelli alla mele e quelli vecchi, ma molte volte si rovinavano perché li forzavi e andavi oltre il fine corsa. No, sono cose interessanti. Quella super reazione non l'ho mai vista fisicamente, la conoscevo a livello teorico, non l'ho mai vista fisicamente, ma stavo leggendo quella super reazione che, ma tu l'hai fatto su che banda, 8808 o che cosa? Giù. No, onde medie, no, 8808, sempre onde medie Robert. E quella che ho visto io faceva da 88 a 110, si poteva arrivare anche a 130, la banda aeronautica, e sono due, anziché fare una reazione, tu probabilmente hai fatto come stai dicendo tu, a reazione, quello super reazione utilizza due circuiti, doppia reazione in parole povere, per cui quello il decadimento, perché c'ha una sensibilità allucinante, però dura pochi secondi la sensibilità, poi decade. Allora mettono in serie due ricevitori a reazione e quando cade uno parte l'altro, in modo che c'è sempre continuità di coso, di sensibilità. E stavo leggendo che la sensibilità è eccellente su quel tipo di coso, anche se poi quando c'è il segnale si sente un fischio fisso, tipo superetodina, diciamo un'evoluzione, una primordiale superetodina. Quello che l'aveva inventata era non ricordo se era russo o cosa era che l'aveva fatta questa radio. Questo non lo so, che l'ha inventata, questo non te lo so dire. Sì, infatti era sempre sul sistema superetodina, certo, ma è così, quando era doppia con doppia cosa, era una in controfase l'uno con l'altro, ed è per quello che magari cadeva uno e riceveva l'altro, sì, no, ma io avevo fatto quella normalissima, tranquillamente, no, non c'era problema, sì, da qualche anno fa ce l'avevo sempre, poi l'avevo tolta, anche perché io facevo così, facevo delle cose, poi per non spendere troppi soldi, magari smontavo e facevo un'altra cosa, e certi componenti che potevano andare per la costruzione successiva li utilizzavo. Ecco com'era, un'altra volta avevo un barattolo, tu presente ce l'hai, una scatola di scarpe da bambino, da ragazzo, dai, che la scatola è un po' piccola di quelle delle persone adulte, no? Di scatola di scarpe, era tutta piena di componenti, tutta, un sacco di dinà, tutte cose che io avevo comprato, che facevo, utilizzavo, poi smontavo, facevo altre cose, e poi alla fine ci ho buttato tutto. Poi riviste, avevo bisogno di spazio, ho preso delle riviste, anche ultimamente ne avrò buttato senza esagerazione almeno un 150-200 riviste di elettronica, tutti, addirittura riviste del 1956, ti puoi immaginare, andavo via appena 14 anni io, allora, che allora costavano intorno ai 25-30 lire, una cosa del genere, cose, guarda, un peccato, ma veramente un peccato, perché erano cose da conservare, ma cosa me ne faccio, intanto li tengo lì e non li guarderò mai più, tanto vale che ce li butto e non se ne parla più. E infatti così è stato. Ma beh, Giuseppe Adelucci, sono andato l'ho portato la porta bagaglio, quando sono salito in città poi l'ho messo dentro il bidone della carta, tutte quante queste cose qua. Non mi interessava più, tanto è inutile stare lì ad accumulare. A un certo momento te ritrovi con una marea di cose e ti occupa spazio, eccetera. E figurati. Vabbè, allora non. Infatti sto pensando di eliminare ancora altre cose, vedremo un po' cosa mi salta in mente. Le prendi? Sì, no, sono un peccato poi te ne prendi. No, io lo stesso, a me mi ha dato, li avevo presi da un coso dove vendono libri, giornali, fumetti ad Alghero, una specie di rigattiere, dai, che c'è specializzato in fumetti. Io sono appassionato di fumetti e collezionista, e ho preso il sistema pratico, non so se te lo ricordi, quella rivista degli anni 50, dove c'erano di tutto e di più, per dire, da roba di elettronica a roba di costruzione, guardate, posso dire, di qualunque genere, e c'erano tutte le lettere dei lettori, per dire, voglio costruire un'antenna, e ti diceva come fare, voglio fare la cromatura, voglio mettere l'accensione elettronica alla macchina, voglio eliminare e c'è di tutto e di più. Io me le sono tutte conservato, ne ho comprato almeno una ventina, ho molti numeri successivi, perché poi c'era costruire un aeromodello, costruire un ma guarda, è una cosa bellissima, io sono molto appassionato, ti ripeto. Elena Mari, l'hai conosciuta anche tu quelle lì? Sì che le ho conosciute quelle cose, e ne ho fatto anch'io prima di collezioni. Ad esempio, quando ero ragazzo io leggevo molto i giornalisti, quelli su Sciuscià, Tom Mick, tutte queste cose così, sai quanto ne avevo? Mi ricordo, ragazzi, da mio padre lavorando, io andavo dove era lui, mi collocavo sulle tavole e mi leggevo i giornalini. Tant'è che ne ho conservati oppure mutati tutti, cosa me ne vasia, erano anche tutti ingialliti ormai dal tempo, lo sai, no? Come succede, la carta poi si ingiallisce e dunque non è più nemmeno bella da vedere, però. E poi parlando, tu mi hai parlato ad esempio del corso della scuola radio lettera, ma io avevo proprio i libri originali della scuola radio lettera, ma ne avrò avuto almeno una quindicina di lezioni, anche quelli li ho buttato via, non me ne basia niente, no? Era tutta roba che parlava principalmente, sai, inizialmente parlava della legge di Ohm, delle resistenze, della corrente elettrica, tutte queste cose qua, per almeno un 6 o 7 lezioni. Poi incominciavano le applicazioni di elettronica, tutta roba valvolare, piccoli circuiti, valori di resistenza, valori di capacimetri, tutte queste cose qua, ma sembra cosa me ne posso ragionare un po' di tutto, non mi interessavano più. Sì, comunque ce l'ho qualche libro ancora di elettronica, ce l'ho, non è, ma proprio libri, non più riviste, eccetera, no, le riviste le ho fatte fuori tutte proprio, tutte completamente. Vai, vabbè. No, anche io le ho prese, no, io quello che c'ho io di scuola radio lettera del 1957 ed è da tiro scritto, proprio sono dei fogli A4 scritti a macchina in originale, non in fotocopia, tutti, dalla prima lezione che parlava dell'atomo, energia, fisica, leggi fisiche, e poi, come hai detto tu, ci parlava tutto, resistenza, legge di Ohm, capacità, eccetera, eccetera. Non le ho conservate perché è una cosa rara, trovarle originali in fogli da tiro scritti, penso che ormai ce ne siamo ben. Poi c'è un po' di enciclopedia di elettronica, due o tre le ho prese, una ce l'avevo, che era un ragazzino, me l'aveva comprata mia madre, quelle che facevano a fascicoli settimanali, l'avevo completata, e più ne ho preso una qualche anno fa, quei mercatini, bella lo stesso, di elettronica, con questa, diciamo, degli anni 80, un pochettino più, come si chiama, c'è qualcosina, 80, fine anni 80, dai, c'è qualche fotografia un pochettino più attuale rispetto a quella prima che avevo io, e poi ne ho un'altra, che sono 4 volumi, una a 12 e l'altra mi sembra 8 volumi, e più c'ho un po' di riviste. Poi c'è un amico che c'è, fratello, un grande radioamatore, uno dei più famosi, mi se ne è dissuato, mi ha portato 3 cassoni in officina, mi ha detto, prenditeli di quelli, come si chiama quello del club dei radioamatori, come si chiama quella rivista che danno dei radioamatori, aiutami. Roger K. Come? Roger K. No, non c'entra, forse c'è, come cazzo, della IRAE, dell'Associazione Italiana Radioamatori, però non è molto interessante, mettono qualche articolo, ogni tanto più che altro ci sono tutti i contest, i punteggi, sono dei giornali, delle riviste, hanno 70-80 pagine, però di cosa effettiva ce n'è poca, mentre il CQ elettronica, quelle mi piacciono, ne hai tu di CQ elettronica vecchie? Ho tutto eliminato, ne avevo, le ultime che avevo, infatti mi avevo messo da parte.